gli acciacchi compresi. Thank you very much, Tony. Va bene, insomma, comunque in macchina è il migliore proprio, là l'ascolto con l'antenna risonante è proprio il top in macchina. E così era con quell'altro, come si chiama, che era più grande come radiolona HF. Non mi vengono più i nomi. Xiaomi. Ma considerato che sono radioline molto piccole, comunque il loro sporco lavoro di farti fare un po' l'ascolto senza grande impegno, anche al mare magari lo fanno. Adesso qua, mi sa che l'hanno aumentato, io l'avevo pagato di meno, però non me lo ricordo. Vedo che è quasi 90 euro. Su Amazon è probabile, io avevo visto un prezzo lo stesso non conforme a quello che avevo pagato io, a parte che io credo che avessi preso o l'avessi preso con il coupon oppure con l'offerta lampo, quindi ho riuscito a pagarlo abbastanza a filo dei 70 mi pare, o 70 spiccioli, adesso sicuramente sarà salito di prezzo. Bien. Vabbè, comunque io l'ho preso proprio per l'HF in banda laterale, per i radiomatori, dai, non per la banda aerea, non per FM, così, per sostituire quell'altra marca, dai, porca miseria, di 606, 660, Texun, che l'ho venduto, poi chi ce l'aveva, non so, forse in seguito ha avuto qualche problemino, insomma, vabbè, capita, l'elettronica soggetta a guasti. Era più grandetto, era discretamente più grandetto come dimensioni, questo sta anche, non dico in un taschino, ma in una tasca di giacca non troppo capiente, ecco. Sì, adesso non lo ricordo, ma credo che la mia ci abbia anche la custodia, se non ricordo male. È vero, sì, deve essere buttata da qualche parte, c'era la custodia in dotazione, la batteria da 2000, io l'avevo presa anche da 3000, marca Panasonic, che già dura un'infinità quella 2000, per il poco che la uso, quella 3000 non riuscivi mai a finirla. Poi ti davano quella specie di long wire, sì, questo schifo di cavetto da 3 metri, che però se sei in zona aperta funziona. Cos'altro ti davano? Non mi ricordo se ti dessero il caricabatteria o solo il cavetto, però credo solo il cavetto USB. Sì, solo il cavetto davano. C'era solo il cavetto. Beh, infatti mi meraviglia. Ci vediamo un po'. Adesso ti dico quanto l'ho pagata io, perché io mi ricordo che c'era una specie di coupon. Perché il prezzo qua è abbastanza alto. Ah no, 89,00. Vediamo un po' adesso, vabbè. Quanto l'ho pagato, Vediamo se c'è ancora su Amazon. Sì, sì, c'è, lo sto guardando io, l'avevo pagato. 88,58. E c'era il coupon. E c'è ancora. Pure sul ripetitore sono gli spagnoli, mi. Ah sì, 625. Adesso vabbè, non traslo perché. Ah 6625. Ah, l'altro è Vittorio che sta rispondendo. Uno è spagnolo, l'altro è nostrano. È probabilmente l'R2. Sì, allora stavo guardando il prezzo attuale, già il venditore che avevo io, vediamo. Non so se sia lo stesso venditore. Venditore Amazon. Cioè, spedizione Amazon, venditore Radi Wow, sì è quello. 88,58 mi viene. C'ho un coupon dell'8% volendolo ricomprare, che non mi serve. I coupon li danno sempre quando non ti servono su Amazon, hai notato? Quando non ho niente da prendere, coupon a piovere. Quando mi serve urgente la cosa, i coupon tutti scaduti. Sì, sì, sì, infatti. Lo stesso che ho preso io. A quel prezzo dovrebbe anche essere. L'ho acquistata ad aprile del 22. Sì, caruccia, finché dura, insomma, tanto io per la fonia e boh. Per la fonia, per magari guidando o quando sei già a Torres lì. Quando una volta portavo mamma al mercatino, poi mamma vabbè si è ammalata e niente Pro Torres il giovedì. Io la mandavo al mercatino, ci guardava piano piano tutte le volte, mi raccomando ma piano così ho il tempo di ascoltare. Andavo all'ancora lì sopra Parai e mi ascoltavo l'HF così. E poi passare il tempo, va più che bene. Io c'avevo il Degent, però sai che non mi ricordo a chi l'ho dato il Degent. Boh. Allora il Degent, quale avevi? Quelli con la scala parlante, così si chiama, o quelli con il display digitale, che credo che l'abbiano fatto con una pacottiglia di modelli, No, questo c'aveva il sia la scala digitale e sia la frequenza. Andava abbastanza bene, potevi fare ascolto, praticamente sono pressoché identiche come radio, qua le esaltano molto, insomma, non tanto quelle cose deve fare, non è che, solo che questa c'è in più la banda aerea, tutto lì, e per la SB magari questa è un po' più logorica, però insomma, già va bene. A voglia. Molti la prendono per le BCL, così per ascoltarsi con le radio AM dalla Cina, dalla Russia. No, non esiste. Infatti quando fanno le recensioni su YouTube di queste radioline qua, vanno sempre a puntarsi segnaloni megagalattici che ascolti anche praticamente senza antenna, capito, quelle broadcaster tremende da decine di o centinaia di kilowatt. Poi a me interessa sempre la qualità di ascolto sulle bande amatoriali, in banda laterale, eccetera. Ripeto, per chi non ha troppe pretese, il suo lavoro lo fa, ecco. Tutto lì. Qualcuno ha fatto anche la recensione. Però, insomma, dai, già va bene. Finché dura, e poi con 50 euro, quant'erano? 80 euro. Cosa ci compri? Infatti, sai quale mi piaceva molto d'aspetto? Allora, ha tanti nomi, costa un pacco di soldi, per quanto lo userei sarebbe sprecata, però mi piace molto l'estetica, è questa Eaton alias Grundig Satellite 750, c'è con un saccaccio di nomi, e ha pure lo smitter a fondo giallo, display grande, tasti, VFO, le maniglione laterali, è carinissima come radio, dietro c'è un discreto numero di attacchi per antenna, compresi long wire, c'ha proprio le uscite adattate, una proprio col forse BNC, adesso non mi ricordo se BNC o jack, più gli attacchi per il long wire piccolo, hai capito, un unico polo e non so quant'altro, non so se ce l'è presente come radio. Ma qual è quello tipo radioni? Quelle grandi? Sì, tipo radione, però sembra un HF quasi amatoriale, quasi. C'è un bel altoparlante frontale, regolazioni, potenziometri, VFO, guarda, cerca, Grundig Satellite 750 su internet. qua mi dà questo, vediamo un po', com'è. Sì, è tipo sì, ma si assomiglia molto all'altra, a quella cinese. Sì, praticamente c'ha roba di 10 nomi diversi, 10 marche diverse. Adesso magari non dietro, ma qua sto vedendo una foto, c'è un'antenna BNC per l'FM, me l'attacco ai marroni. Poi un'antenna, sempre un attacco antenna BNC per le shortwave, lì, vabbè, HF. Shortwave, vabbè, loro intendono onde media anche, no? Spero. No, poi hanno anche un'uscita, quanti ohm? C'è un numero un po' grande. Che cacchio di numero è? Oh, 500 ohm. Sì, c'è i due fori con il morsettino. SV ant e... Ah, e l'altra è la massa, vabbè, sì. Sì. C'è la FM stereo, c'ha... è molto, molto plastificato. Beh, c'è una linea d'uscita, una d'entrata per l'amplificatore audio eventualmente, e poi non ne vedo altri di cose, ma sul lato posteriore vediamo se c'è qualcosa sui lati. Ah, fa anche da cosa, da radiocognometro, fa anche da radiocognometro, l'antenna è orientabile. Sì, notavo che sopra c'è questo busellus che si inclina, non so se valga per tutta i 3, da 1 a 30 MHz, o se è roba per roba più bassa, tipo la vecchia radio AM, credo non ci sia più niente ormai, o quasi, vero? La vecchia radio AM, quanti era? 600 o 1700? Non mi ricordo nemmeno la banda, per 530 a 1700 kHz. Sì. Ah, questa va l'SSB, eccetera. C'è la banda aerea anche, tutte quelle cose lì. Sì, è carina, diciamo, certo, non lo so poi a portata d'impresso se... c'è di meglio, ecco, se te lo devi trascinare. Certo, in macchina. Pensa che questa, quando sono in macchina, che metto la base magnetica, la Proxel Prox1, quella con le prese calcolate, o più o meno, là, già capito. L'appoggio sulle radio del volante, cioè non cade, rimane poggiato lì, sul volante. E riesce a sintonizzare, quello è un barrasone, quella link la puoi tenere sul sedile, sì, quella, il satellite 750 è più grosso, sì, anche la Texun la fa con un altro nome, Texun S qualcosa, è sempre identica, però c'è un bel corpo d'occhio, come può mettere anche delle batterie, mi pare siano dei torcioni, torcioni, sì. Sì, poi bisogna vedere un po' come si comportano all'aperto, anche se poi alla fine sono quasi tutte buone, con tutte, c'è anche il coso, il DSP dovrebbe avere, sì, c'è il DSP, poi dipende da che tipo di DSP ha, sai. Il prezzo, non vedo il prezzo. Io sono andato alla ricerca per immagini e non sto guardando il prezzo, adesso lo guardo su eBay. Sì, ho notato che ha due anche uscite audio sopra il comparto batterie dietro, le uscite audio per magari collegarlo allo stereo, migliorare l'audio, le casse della macchina, cioè, o dello stereo di casa, che ne so, qualche altoparlante con qualche filtraggio in più, però davanti c'è già la regolazione bassi, medi e alti, ho notato che poi quelli servono più che altro per la musica, per ascoltarci l'FM, tra poco manco più l'FM c'è, la 8808 farà la fine del digitale terrestre. E sarebbe ora, così almeno finiscono di mandare tanti disturbi in giro. Ciao, il coso, vedo che è anche messa nel muso di questa cosa. Poi bisogna vedere se è una copia anche dell'originale, perché è una cosa un po' strana, qualcuno sta vendendo a 200 e fischia. Questa che dico io, addirittura ce ne sono anche più grandi, questa c'è la Grundig satellite 3004 che deve essere una cosa imponente. No, ma c'è la scala parlante, Pucci, c'è un bello smitter, però preferisco l'indicazione precisa della frequenza. Va bene, c'è qualcuno che vuole entrare? Sull'ICI, avanti. Buonasera Marco e Gianfranco, Carlo da questa parte. Ciao Carlo, ben sentito dopo un bel po' che io non stavo entrando a causa caldo, ho rotto le scatole, e poi mi sarei si acceso tutto il giorno, spesso non c'è un'anima, perché giustamente chi va al mare, chi va in campagna, chi se ne sta in piscina, altro che paracchino. C'è Gianfranco, solo Natalina è andata a mangiare, a meno che non ci era entrato, poi lo chiamiamo. Vai te Gianfranco per Carlo. Sì, ciao Carlo, ben ascoltato, dopo tanto tempo. Niente, ti rilancio il micro. Lo stesso anche io, stavo entrando un po' di meno, causa caldo, ferie, eccetera, adesso sono rientrato a lavorare, poi avevo anche degli altri impegni in famiglia, per cui mi rimaneva veramente poco tempo e quindi le mie, diciamo, apparizioni in radio erano un po' sporadiche, ogni tanto già stavo entrando, infatti da poco ho sentito Natalino, con Antonello mi sono sentito e insomma con qualcuno sì, in base alle ore eccetera, però diciamo il caldo un po' ci scoraggia e ci tiene un po' lontano, adesso se rinfresca un pochettino magari diminuisce anche il QRM in radio, così disturbi da altre emittenti che a tutte le ore ci stanno facendo venire il mal di testa con la propagazione, già dovrebbe andare meglio la cosa. Vai Gianfranco. Allora mi puoi ascoltare in Italia? Mamma mia, no, anche qua. Sì Carlo, e anche io spengo quando sento tutti questi rumorarci, tengo lo squelcio al limite, ma quando riescono a passare anche con lo squelcio tutto girato mi rassegno e spengo. Quindi troppi disturbi, non di testa e basta. A te Marco. Cappa, Dio che benedica lo squelcio, veramente. Per esempio ai tempi del 140 potevo solo attenuare in AM per evitare propagazione, no? Tutto sto belame, e non mi scompifferava molto, però cioè lo squelcio in AM è quasi indispensabile per me con la propagazione. Vediamo se è rientrato Natalino, ci ha mangiato, digerito. Natalino, ci sei? No, adesso è il dolce, poi c'è il caffè, la mazza caffè. A proposito di caffè, adesso vado a farmi un caffè freddo. Giusto freddo adesso il caffè. Io mi sto limitando al caffè del dopo pranzo e basta. E qualche volta ne prendo uno la mattina verso le 9, che prima faccio colazione con latte eccetera, poi se mi viene voglia così verso le 9 e mezza un caffè lo prendo, però col caldo in effetti ne sto prendendo pochi anche io, perché insomma si cerca la bevanda fresca, qualche tè freddo, così, qualche birretta fredda ogni tanto è piacevole, e poi frutta. Vai Gianfra. Allora, mi può ascoltare l'Italia? Sì, allora io riprendo, mi hanno chiamato, quindi vi devo salutare. Ciao Carlo, ciao Marco, buon proseguimento e buona serata. Scappo via e ovviamente buona sera anche a tutti quelli che stanno ascoltando. Ciao ciao. Ciao Gianfra, ce la risentiamo. Vai Marco. Ciao Gianfranco e buona cena, buon tutto, buon proseguimento di serata. Peccato che, mamma mia, sono cotto dal caldo, sono, pensa, in mutande, in boxer, veramente la soffitto, però io quando parlo poi mi scaldo molto. Infatti voglio qualcosa di freddo, magari anche un gelato, mi sa, e il caffè più tardi. Stiamo parlando di ricevitori, Carlo, quelli così ricevitori tascabili per bande amatoriali, no? In SSB, in HF, così, basta un pezzo di filo, una zona appena aperta e riesci a sentire, a fare dei belli ascolti. E poi ti danno anche praticamente l'HF, la FM commerciale e la banda aerea, quella la infilano sempre, la infilano, per quanto a me proprio non piaccia, 0-0 totale, è una cosa che non mi ha mai appassionato. Ho detto, magari appassiona più forse gli addetti ai lavori o chi si deve pigliare brevetti di volo, insomma, capito. Io penso che non l'avevo manco usata in questo ricevitorino piccolo, non avevo nemmeno provato la banda aerea, tanto non c'è mordente, capito? Sì, io un periodo mi avevo comprato anni fa un portatilino del genere e prendeva anche la banda aerea, ma non è che ci sono comunicazioni tra terra e aereo, le varie torri di controllo, ma niente di che, poi non, quando ne ascolti uno, due, tre, eccetera, alla fine sono sempre le stesse comunicazioni, quindi che non è molto interessante, neanche io non l'ascoltavo molto quando ho avuto la possibilità di poterla sentire, capito? No, attualmente io non ho nessun ricevitore, perché poi avevo dato via tutto e molte cose me le avevo vendute, eccetera, ho solo raccimolato quattro cose qua per tirare su una piccola stazione a casa e basta. Niente, poi da poco ho messo a posto una radio, il Galaxy Saturn che avevo preso da Gianni Doppio Room, però diciamo è troppo grande, quindi sono ritornato alla mia solita radio che copre tutte quelle stesse frequenze, forse anche di più, e l'unica cosa che non ha rispetto a quello è la scheda Echo e il Roger Gip, però per il resto questa radio che sto usando ha le stesse cose, per cui è molto più compatta e più pratica. Sì, sì, sì, bello il Saturn, però vabbè, parlo per me, perché io ricordo sempre che a fianco al divano ho un riquadro di 40x40 e un vecchio e bruttissimo portatelefono, sai, che mettevi il telefono lì sopra e poi sotto c'è lo spazio per la guida telefonica. Il mio spazio di lavoro è lì, ricevitorino al limite, è un baracchinetto, poi a me è sempre piaciuta la roba facilmente imboscabile, capisci, a me, non niente di ingombrante che magari non riesci a infilare in un cassetto, sotto il divano, sotto il letto, che ne so io, vabbè, che poi sai che dentro, praticamente dentro il Saturn, o c'è un 3009, o c'è un Ranger, c'è la versione turbo, o apparecchi similari, insomma, alla fine la base è sempre quella, quindi il resto sì, è tutto estetica, bucia, qualche regolazione in più, capito? Magari anche qualche watt in più, l'effetto eco, dipende dalla versione. l'elementatore poi entra contenuto, quindi volendo, se funziona, sposare anche quello, l'elementatore interno oppure la 12 volt esterna. E comunque bello, è che era proibitivo, ai nostri tempi, quando negli anni 80 questi apparecchi erano nuovi, cioè ti costava uno stipendio, mezzo stipendio, dai, dipende dallo stipendio. E ne hanno fatti in vari colori, color bronzo, color argento, ne hanno fatti neri, anche color oro qualche versione, con i nomi più disparati, capito? E c'era il modello a 5 bande che aveva le schede più vecchie, tipo quelle di cui non mi viene il nome, oppure quelle più recenti con la 6 bande, doveva essere tipo il 3009, oppure il Ranger, la scheda del Ranger 2950DX, quella della versione turbo, quello che ha i tastini illuminati e l'indicatore di frequenza a cristalli liquidi, sì, mi pare. Sì, sì, hai detto bene. Io l'ho vista aperta la radio quando l'ho portata ad aggiustare, praticamente il 70% dell'interno è tutto vuoto, capito? E lo spazio è occupato e poco e niente, capito? È solo esteticamente grande, ma poi dentro molto dello spazio si poteva compattare, però allora le facevano così ed era giusto quello che facevano, per carità, a quei tempi andava bene in quel modo lì. No, già come radio è buona, è ottima come trasmissione, esce con qualche watt in più senza dubbio, e già è una buona radio, però è troppo ingombrante. Anche io come te sono per le cose compatte, piccole, poco ingombranti, perché se funzionano allo stesso modo vanno meglio quelle. Vai, Marco. Ma poi era stato risolto il problema di quell'apparecchio, cioè tu proprio l'avevi riparato, mi pare, con i finali giusti, corretto? Esatto, chi l'ha aggiustato mi aveva chiesto i due finali originali della Mitsubishi, cosa che avevo fatto ordinandoli da internet, così originali, li vendono in coppia, costano 8,70 euro, una fesseria sono costati, e poi lui praticamente di manodopera ha voluto 20 euro, quindi una spesa proprio irrisoria per metterla a posto, e funziona perfettamente. E infatti Gianni un po' ha avuto fretta di disfarsi, lui quando ha visto che rifettava si è buriato, e poi mi pare non avesse trovato i file originali, i finali originali, e lui è impulsivo e allora se ne è disfatto, capito? Però io avrei atteso un po' di più, con calma, tanto non gli mancano le radio anche a Gianni, no? E l'avrei messo a posto bene, l'avrei fatto, tanto più che i finali si trovano tuttora, originali, Mitsubishi originali. Che cos'erano come finali, te li ricordi? Cos'erano, 1969 o altra roba? Non 1969, ma 2562, qualcosa del genere. Adesso non me li ricordo, però dovrei averci riscritti da qualche parte. Ok, comunque finale standard, vero, non MOSFET, era roba già vecchio stile, cioè era ancora roba vecchio stile. Sì, esatto, roba vecchio stile, però si trovano sempre quei pezzi di ricambio. L'unica cosa buona di quelle radio è che si rompe qualcosa e la trovi sempre, perché ne hanno fatto a scatafasci di quella tipologia di radio negli anni 80 sino a tutto il 90, insomma andavano e i ricambi c'erano sempre, e secondo me ne hanno tanti ancora, solo che in Italia si trova poco e niente, se vai da Fusaro a chiederli ti dice no, prendi questi che sono la stessa cosa, invece non sono, no, se non sono gli originali su quella radio non funzionano, capito? Per cui è inutile comprarli da Fusaro, devi mettere il suo originale, perché solo in quel modo la radio si rimette a posto da sola. Sì, ci avrei scommesso i finali anche per esempio per il 1969, li vendono tutti dicono che sono originali, ma già dalla forma, se, guarda, se sono onesti su internet mettono la foto del coso, già dalla forma e anche dalle scritte ti accorgi che non è originale, cambia la forma proprio della lettera del dissipatore, la forma del corpo proprio del transistor, con gli angoli più smussati, meno smussati. E infatti 1969 forse lo stesso Mitsubishi, però non mi ricordo esattamente. E c'erano anche dei CB che nel tempo li avevano accumulati, letto sui forum, e se li vendevano poi a caro prezzo, 1969, capito? Perché cominciavano a diventare davvero introvabili, a meno che non li ordinavi dall'altra parte del pianeta, pagando un po' di più, però prima o poi arrivavano, infatti a te sono arrivati. Ma una curiosità, tu li hai trovati in Italia o da fuori, proprio fuori Italia, tipo Europa, Stati Uniti, Giappone? Ora, a me ha mandato il link chi ha aggiustato la radio, mi ha mandato proprio il link su WhatsApp, ed era un link che mi riportava a eBay, ed era un rivenditore però dei paesi asiatici, e proprio evidentemente era nel posto dove o c'era ancora la produzione oppure ce li avevano, ed erano proprio quelli originali, no? Descritti così, lui mi ha mandato la foto e io sono entrato in quel link, mi ha portato su eBay e ho visto che costavano così circa, tra spedizione tutto, 8,70 euro sono costati, e mi sono arrivati nel giro di neanche 2 settimane. Caspita, guarda, ti è andata benissimo, non bene, benissimo, c'è un costo irrisorio, se li andavi a prendere, ripeto, dai CB, da quei forum, tipo i soliti forum, poi sono Roger Cap, eccetera, ti davano 30 euro l'uno, c'erano 50 euro l'uno, capito? Scusa, che erano introvabili, invece se trovi i canali giusti, eppure eBay, vedi, non è nemmeno un sito remoto, proprio eBay, un rivenditore asiatico, onesto, per fortuna, che ha messo, se c'era anche la foto, avrà messo la foto originale, e in più te le ha mandate originale, quindi è di lusso, di lusso. Comunque è bello il Saturn, una bella modulazione, bello, bello, un bel apparecchio, dai. Però ripeto, impegnativo all'epoca. E tu avevi sentito di quel radioamatore che praticamente sulla base del Saturn ha creato una, non so come definire, una meraviglia unica, praticamente l'ha riempito di schede, di tutto di più ci ha messo dentro, quindi c'è non solo il ricevitore, ma un ricevitore DSP con tanto di display, software gestionale, un piccolo computerino, il lineare, guarda, probabilmente te l'avranno già fatto vedere, tutti i moduli, tutta la roba, i cavi, tutta la roba raggiunta, un lavoro eccezionale, eccezionale, in più tutto anche il frontale rifatto con le serigrafie giuste, laminato in alluminio, ma una cosa a livello industriale, un lavoro a livello industriale, certo un pezzo unico ne possono fare, perché l'ha fatto un privato, ma è, mi pare si chiami Saturn DX o 3000 DX, ma è un'opera d'arte, guarda. Esatto, e infatti quello che ti dicevo, il 70% all'interno della radio è tutto vuoto, quindi ti dà la possibilità di riempire tutto quello che ci puoi mettere, ovviamente un radioamatore magari sicuramente se la cavava con schede e tutte quelle cose lì che ci ha aggiunto, magari era un radiotecnico e quindi aveva strumentazione anche per poterla provare, misurare, tarare, sicuramente è una radio che si presta a tutte quelle cose, perché di spazio all'interno ne ha tanto, ne ha anche troppo, capito, per come è concepita all'originale, diciamo, è semivuota dentro. Vai Marco. Sì, tanto spazio per tanta roba. E pensa che appunto Gianni stesso, doppio Roma, ha detto chissà se lo vende, se lo fa anche così, farne altri per venderli, solo che guarda, ho visto bene dei video non nuovi, perché una volta ho visto solo una foto, alcune foto da un sito, ma erano anche poco definite, ho visto invece proprio un video di YouTube dove faceva vedere il tavolino pieno di schede, schedine, rinvii, il più computerino, il display per far vedere tutta la banda, il waterfall, guarda, una cosa incredibile, un lavoro certosino, eccezionale, in linea retta ovviamente per la 27, certe cose non ho capito neanche a cosa servivano, visto delle regolazioni, o addirittura c'era un accordatore interno, no, non lo so. Comunque è veramente un'opera d'arte. È che non mi ricordo più i video di YouTube dove li ho visti, cioè che canale era, dove facevo vedere più in dettaglio alcune parti di questa radio qua, autocostruita, diciamo migliorata, come possiamo dire. Esatto. Sì, io qui stavo anche entrando poco, mi ero dimenticato di dirvelo prima, quando c'era anche Gianfranco, perché praticamente avevo anche scollegato l'antenna, perché da me nel mio palazzo sono partiti con il ponteggio per i lavori del 110, per cui su quella parte lì avrebbero dovuto lavorarci. Invece poi l'impresario ha detto che lo farà in seguito, perché praticamente ci sono alcune strutture che devono essere rimosse, e quindi allora ha ricollegato tutto, per cui ero stato circa una decina di giorni con l'antenna scollegata, capito? Ero pronto a tirarla su, a volgerla magari e metterla sul tetto dentro una protezione, una busta di nylon, qualcosa, e poi una volta finiti i lavori l'avrei rimessa giù. Invece poi, quando ho saputo che ancora lì non toccano niente, l'ho ricollegata, capito? Infatti anche a me non è chiara questa cosa, se va rimossa le zanche, adesso si bisogna togliere tutto, perché poi qua vabbè. E praticamente dopo mesi e mesi e mesi di silenzio pare che anche qua cominciano i lavori di accantieramento, sperando di non essere in situazione di rischio. Prima ci sono i soldi, poi le cose non stavano pagando le imprese, poi è caduto il governo, magari chi viene eletto non è d'accordo al 110% e finisce che ci dobbiamo magari pagare i lavori già iniziati di tasca. Mamma mia, ci sono dei rischi orrendi a cui non voglio pensare. Più tutta la rottura di scatole diventa un cantiere, per carità, del quale devo cambiare finestre e tutto. Mamma mia, non mi ci far pensare, la polvere, il coso, devi spostare tutto. Vabbè. Sì, ho capito. Noi abbiamo fatto già l'ultima riunione, praticamente con l'impresa che è la Vitrius, qualcosa del genere, se non ricordo bene, è una grossa impresa, capito, ha un sacco di palazzi qua a Sassari, ha praticamente il monopolio in Sardegna, lavora anche su Olbia, su Cagliari, eccetera, uffici un po' dappertutto, e hanno messo già l'impalcatura dietro nella parte del cortile, non nella facciata principale, e praticamente inizieranno dal tetto, quindi ci rifanno il tetto nuovo, praticamente tolgono le tegole, rifanno gli strati di cemento che eventualmente sono consumati, malta, impermeabilizzano e poi mettono anche la coimbentazione e le tegole nuove. Dopodiché procedono col cappotto a tutta la facciata, tranne nella parte dove dietro ci sono dei terrazzini chiusi abusivamente, sai, con quelle strutture in alluminio, eccetera, e loro ci hanno detto là dove ci sono abusi edilizi noi non possiamo procedere, e fanno solo i lavori col 110, non fanno più bonus facciate, eccetera, perché le banche non gli concedono più i crediti, non mi ricordo adesso, mi sfugge il nome, per cui loro possono procedere solamente col 110%, e ci ha detto che con quelli sono garantiti con la cessione del credito, non mi ricordo com'è. E praticamente ci fanno tutta questa lavorazione, ci cambiano gli infissi, il portone blindato nuovo, a me non lo cambiano perché io me l'ero cambiato qualche anno fa, quindi ce l'ho già nuovo, e lo Stato laddove trova delle cose che non sono da cambiare non te le regala, quindi a me non lo cambiano, tutto al più potrò adeguare il pannello esterno agli altri, oppure gli altri si dovranno adeguare al mio che è già fatto, per cui non so come andrà a finire la questione del portone. Poi per il resto non dovrebbero toccare niente, la caldaia rimane quella che abbiamo, l'abbiamo cambiata 3 anni fa noi nuova, e praticamente il nostro, siccome è un impianto vecchio di riscaldamento, quindi quindi non è con gli stacchi orizzontali ma le colonne verticali, e ce ne sono diverse, quindi non è possibile fare una contabilizzazione, ci ha detto, per cui anche mettere le valvole che regolano la temperatura all'interno degli appartamenti sul radiatore, bisognerebbe mettere un sacco di centraline e sarà quasi impossibile determinare, prendere poi le relative letture, capito? Perché in un appartamento ci passano tre o quattro colonne diverse, quindi quando ci sono i vecchi impianti così concepiti in quello stato lì, dice che loro non possono intervenire, quindi abbiamo la fortuna che non ci toccano i radiatori, non ci toccano il bruciatore, la caldaia, noi l'avevamo fatto tutto nuovo 3-4 anni fa, non di più, per cui solo fanno tetto, facciata, ci cambiano gli infissi e le porte blindate, quindi da quel punto di vista siamo, diciamo, fortunati che non fanno un intervento più drastico all'interno degli appartamenti, e dovrebbero finire tutto nell'arco di 3 mesi. Adesso sono in ferie praticamente e riprenderanno tutto dal 22 di agosto. Questo è quanto. A te Marco. Ciao. Ah, ecco, voi avete tegole sopra, ho capito. Qua invece abbiamo il terrazzo che è di due proprietari diversi ed è catramato. E niente, sai come se viene rivestito, no, non credo che venga rivestito noi la pavimentazione, come funziona? Vabbè, io non mi intendo in questa roba, quindi non ho idea, guarda. Noi abbiamo chiesto bene specificatamente questa della questione del tetto, che anche noi stavamo trascurando, noi pensavamo che addirittura non facessero quella lavorazione, invece ho visto che hanno attaccato già, perché il cantiere è già iniziato, hanno già cantierato, hanno fatto una parte di impalcatura, hanno messo un pannello dove gli dicono lavori con concessione eccetera eccetera, edilizia, comune di Sassari, l'hanno notificato all'INPS e tutto, ci sono praticamente quasi 1 milione di euro di lavori, in questi lavori c'è scritto che rifaranno il tetto facendo l'impermeabilizzazione, la condensazione e le tegole nuove. Noi abbiamo un tetto a 4 spioventi, due grandi e due più piccoli, la parte centrale invece è calpestabile ed è catramata, appunto quel catrame lo levano, lo rimettono nuovo e poi sopra ci mettono anche dei pannelli isolanti, capito? Non lo fanno a tegole lì, praticamente è una parte piccola però quella catramata, e là c'è una piccola casetta che era un vecchio vaso d'espansione dell'impianto di riscaldamento che adesso non si usa più, e c'è una piccola casettina dove da una parte sono attaccate le antenne del condominio della TV, dall'altra parte era tutto vuoto e io lì ho messo la mia antenna, capito? C'è spazio per metterne anche altre volendo, ma non sono proprio sul tetto ma su questa casettina in quel piano di calpestio, e quindi non dà fastidio a nessuno, capito? Dovrò togliere giusto il cavo d'antenna quando faranno la parte delle tegole, però fortunatamente il mio filo non passa sulle tegole, perché da lì poi scivola giù il cavo e va in quella parte dove diciamo non dovranno lavorarci, quindi l'antenna non la dovrò praticamente toccare sicuramente. Non ti volevo dire, Carlo, ma stai saturando abbastanza, ma sei aiutato? Sono passato appena. No, ce l'avevo al massimo, adesso abbasso un pochettino. Guarda se così va meglio. Oddio, forse la vicinanza, e qua non ho le refeghine in questo baracchinetto. Forse un tantino meglio. Ok. Sì, poi saturiamo l'antenna anche, che non so se vada tolta, spostata. Io ce l'ho da 92 in quella posizione, già anche l'avevo messa io, non so come funzioni. Però praticamente il gabbiottino centrale, no? Piccolino per accedere al tetto, non so come, presumo venga coibentato anche quello, ma se non c'è necessità di togliere le zanche, io spero quasi che lasciano tutto così, se no devi mettere, mamma mia, non aggiungare, no, preferisco rinunciare, guarda. Guarda Marco, per cortesia, adesso se va meglio, ho abbassato a 4 watt. Ottima. Sì, magari proprio il caldo come scaldicchia l'apparato anche. Anche questo, nonostante abbia miseri 3,5 W modulati, non è bollente, però discretamente scaldicchia. Spero che la modulazione sia pulita. Vabbè, ci mancherebbe, con 3,5 W miseri. Mi arrivi in fondo scala, e la radio Super 5, pulita pulita, proprio ti sento bene. Immagino che tu non stia neanche parlando attaccato al microfono, però è chiarissima la radio. Vario un po', allora io sono di 3/4 al mic, distanza un dito, fai due. È come che lo tenessi quasi di lato la bocca, guarda la differenza tra tenerlo così, 1, 2, 3, e metterlo frontale, 1, 2, 3. Sicuramente qua senti tutto lo spazzamento, capito? Invece mettendolo di lato migliora un po', dai. Ho perso il filo del discorso, sì, saprò di antenne, di coso, però caspita, proprio agosto iniziano, mamma, col caldo, poveri loro, poveri noi, qua dovranno mettere, almeno per quanto riguarda l'abitazione nostra, queste pompe di calore che, spero che non ci arrivino bollette a 600 euro, che le temo queste cose elettriche. Noi usavamo, quando serviva, soffette a gas, quelle portatili, no, quelle Bartolini, no, al limite qualche soffitta elettrica proprio da mettere molto vicino, messa al minimo. Non siamo spreconi né per il riscaldamento né per il clima, perché qua abbiamo un climatizzatore portatile che è sempre spento, quando lo metto mi fa male, mi prende la gola, e allora usiamo ventilatori, così, roba del genere. Non ho voluto nemmeno il raffrescatore, perché tanto devi stare sempre a mettere polaretti, acqua distillata, ed è una rottura di scatole, perché in camera mia l'avrei voluto, però comincia a diventare impegnativo se lo usi a regola d'arte, cioè acqua distillata e polaretti dopo un'oretta, due, diventano già caldi, sì, non hanno più l'effetto rinfrescante, quindi non ne ho preso di questi raffrescatori. Parlo di roba Argo, è roba fatta bene, non quelli cinesi, quelli minuscoli che non fanno niente. Ho capito. Comunque, una volta che la casa, il cappotto, le finestre che hanno i tripli vetri, quindi non hai più dispersione di calore, anche riscaldare l'appartamento, se tu riscaldi per esempio una stanza, il caldo ti rimane, non si disperde, quindi dovresti in teoria mettere queste pompe di calore al minimo, ti regoli i gradi, e quando la temperatura viene raggiunta si spengono automaticamente, quindi il consumo sarà proprio poco e niente. Invece attualmente gli appartamenti, per esempio in camera di mio figlio d'inverno, è la camera più fredda, perché lui ce l'ha proprio sull'angolo, no, dello spigolo del palazzo, e quindi è su due pareti, ed è la più fredda che c'è, perché ho fatto le prove con un termometro, mentre nelle altre stanze, per esempio d'inverno, abbiamo 27 gradi, da lui ce ne sono 25, capito? Soprattutto di notte, quando poi si spegne, da noi rimane un po' di tepore, da lui si raffredda prima. Invece quando faranno la coibentazione, magari i muri disperderanno, e anche la finestra disperderà meno temperatura, perché io adesso, quando giornate di vento, sento gli spifferi che passano, invece quando ci saranno le nuove finestre praticamente sono antispiffero, non sentirei più spifferi, e anche il portone blindato è un'ottima, diciamo, guarnizione per la dispersione, perché non fa uscire niente, neanche i rumori, io non sento più niente in corridoio fuori, mentre prima, quando avevo l'altro portone normale, sentivo la gente che chiacchierava, adesso non sento niente, è tutto con le guarnizioni, per cui è anche insonorizzato, essendo anche spesso blindato, per cui non senti più niente fuori, sentivo l'ascensore, adesso dentro casa non sento niente. Da quel punto di vista dovrebbe essere un'ottima cosa, anche per il silenzio. Le finestre sono poi con l'apertura anche vasista, per cui per il, diciamo, ricircolo dell'aria e l'umidità, perché non si crei condensa dentro casa, sono una cannonata, perché mi ha cugina che abita in via Besta, dove hanno già finito questi lavori del 110, ha detto che lei gli hanno messo le finestre nuove, che è rinata, non sente più spifferi, le apre, non si crea corrente, non sbattono, e dice che è molto contenta di questi lavori, e, diciamo, sono andati bene, speriamo anche da noi che finiscano in 3 mesi come hanno detto. Vai Marco. Ciappa, sì, questa cosa degli spifferi è vero, qua le finestre sono quelle originali. Allora, questo è un palazzo degli anni 50, aspetta, chi era il costruttore? Fine anni 50, non mi ricordo il nome del costruttore, lo sapevo sempre, adesso non mi viene. E le finestre sono quelle lì, sono un po' ridotte male, il legno è quello, cioè... Diciamo che questa cosa un po' dell'isolamento, quando avremo queste finestre con doppi vetri, tripli, vabbè, io sento abbastanza rumore perché sono al piano di alzato, non rispetto alla strada, ero abituato anche a sentire la strada viva, no? La gente che passava, come hai detto tu, che chiacchiera. E questa cosa dei tripli vetri, di questo isolamento acustico, così mi mette un po' a disagio, no? È come essere troppo isolati dal mondo esterno. Poi vabbè, uno dice, adesso lo dici così, poi i benefici te li accorgerai dopo, ma poi noi siamo tipi anche ci facciamo molto, insomma, vabbè. Non siamo abituati da quel tipo di finestre, di tutto isolato, tutto silenzioso, capito? Ma comunque continuerai a tenerle aperte d'estate quando fa molto caldo e la sera te le apri e sentirai comunque i rumori lo stesso, dai. Speriamo che facciano bene i lavori, soprattutto quello. Noi abbiamo dei terrazzini nella parte del cortile che avevamo chiuso abusivamente con l'alluminio, per cui adesso dobbiamo provvedere a smantellare tutto, perché se no loro in quella parte lì non ci possono fare la lavorazione del 110, perché ci sono degli abusi edilizi. Nel resto del palazzo sì, per cui noi adesso entro agosto dobbiamo smantellare queste vetrate che avevamo creato in alluminio e basta, e così poi loro, una volta che abbiamo levato tutto, metteranno l'impalcatura anche lì e proseguiranno con i lavori del cappotto anche in quella zona lì. Questo lo dobbiamo fare però entro agosto, abbiamo trovato già una ditta che deve venire in questi giorni e inizieranno da sua a smontare tutto, perché siccome le discariche sono chiuse ci hanno chiesto se possono mettere tutto nel cortile, ma noi gli abbiamo detto guarda che poi inizia di nuovo il cantiere e quindi lo spazio del cortile servirà anche a loro, loro ci hanno promesso che come apre la discarica intorno al 25 dovrebbero smaltire tutto, capito? Queste serramenti in alluminio e vetri. Quindi speriamo bene, ormai ci siamo imbarcati e non ci rimane altro che sperare che vada tutto bene. Vediamo se è rientrato Natalino, se vuole entrare qualcuno sul canale 10, avanti. Solo per salutarvi, ciao Marco e ciao Carlo, vi stavo ascoltando ma non ho voglia di parlare, ciao, riprendete pure, io adesso chiudo e vado giù in cucina, ciao. Ciao Giulio, ben sentito, bella modulazione, bella forte, bella pimpante, si sente solo una ventolina di fondo così, o roba del genere. Ben sentito Giulio, e qua mi sta entrando poca di gente, 27, e anche quando entra bisogna avere un argomento di cui parlare, se no dopo 10 minuti si chiudono tutti, capito? Vai Carlo per i saluti a Giulio. Ciao Giulio, ben sentito, anche qua arrivi molto bene. Sì, mi facendo 4 chiacchiere e stavamo parlando proprio di quello, che col caldo sta entrando poca gente o è la gente in ferie o sta andando al mare, per cui sono poche le serate oppure di mattina che ci si sente come prima, insomma. Quando rinfresca penso che la gente già si riaffaccia a fare 4 chiacchiere in più. Avanti Giulio, ascoltiamo il tuo finale, poi ti liberiamo. Ok, infatti in questi giorni io accendevo sempre, vediamo se c'è qualcuno, non c'era mai nessuno, allora chiudevo e basta, ciccia, e facevo altre cose, per cui va bene così. Sì, è la ventola dell'alimentatore, Marco, la solita ventola del switching, che non vago a niente. Comunque va bene lo stesso, dai, ci sentiamo. Ok, ciao di nuovo Marco e ciao Carlo, buona serata, divertitevi, dai. Adesso spengo e vado giù. Ciao, ciao, riprendi pure Marco. Sì, Giulio, un'ultima nota. Quella che sembra una ventola è una specie di effetto vibrato un po', a momenti compare sul parlato, che non sia qualche switching, non saprei Giulio, comunque forte era forte, però a momenti sento questo effetto vibrato, l'ho notato non subito magari, però tenendo l'orecchio in effetti. Ok, va bene, evidentemente qualcosa c'è da ricomporre di nuovo, dai, va bene comunque. Adesso forse non c'è, dai, forse era troppo vicino alla radio e allora c'era una specie di effetto che anche se poco importante, però magari il problema poteva esserci. Va bene, dai, riprendi ancora, fai girare, dimmi se c'è ancora, ma non credo adesso ce l'ho in mano il microfono. Adesso vabbè, ho abbassato un po' perché eri un po' forte di modulazione, eccetera. Va bene, non puoi trattenerti, che ora è? 7:15, va bene. Ah no, 8:15, cavolo. Va bene Giulio, dai, ci sentiamo. Io poi devo fare anche una commissione, vabbè, ormai è tardi, pazienza, domani. Ci sentiamo se stai andando via Giulio, dai un'occhiatina, però c'è lo switching, che ne so, qualche... Guarda, sono talmente tante le cause, boh. Lo so, ma lo sappiamo, lo switching è sempre un alimentatore poco affidabile, che è sempre carico di alcuni rumori, incominciando dalla ventola. Va bene, dai, ci sentiamo le prossime. Riprendi pure Carlo, chiudo adesso, non mi chiamate più perché chiudo, ciao. Ci riprendi Carlo. Ciao Giulio, ce la risentiamo alle prossime. Sì, Marco, poca gente in questo periodo, secondo me, causa grande caldo e ferie estive, quindi forse i radioamatori magari loro si sentono di più, ogni tanto c'è una radiolina, io faccio un po' di ascolto e li sento, ma anche loro poca roba, le ferie allontanano un po' tutti, capito, gli impegni familiari in questo periodo, diciamo che le famiglie sono più unite con le ferie, per cui si va fuori e si esce di più, tutto lì. Ieri sera sono andato al Teatro Civico, a proposito di eventi e famiglia, ci siamo sentiti un concerto di un'orchestra che era in giro, prima a Cagliari, è stata a Nuoro e a Sassari, ed era serata cinema, praticamente hanno eseguito tutti i brani di colonne sonore di film, diciamo famosi, ed era, diciamo, abbastanza piacevole, è durato un'oretta e mezza lo spettacolo, 5 euro si poteva fare, e quindi ce ne siamo usciti lì, poi finito che erano intorno alle 10:30, siamo andati a prendere un gelato e poi tra rientrare tutto erano le 11:30, quasi mezzanotte. Queste cose giusto d'estate le puoi fare, vai pure Marco. Tappa, sicuramente anche, spero, roba di Morricone, Ennio Morricone, tutti quei film lì, 60-70, aspetta, cosa ti volevo dire, per quanto riguarda i lavori del coso, per finire il discorso, che in un palazzo non distante da qua, a un passo da qua, io credo ci fossero 3 mesi, invece mi ha già detto, ma 3 mesi, saranno almeno 6 mesi lì, da quando hanno iniziato i lavori di tracappotto e presumo anche finestre e tutto. Speriamo che non durino così tanto anche qui, perché bene o male siamo lì, palazzo di 3 piani più il rialzato, è un macello sarà, 3 piani più il tetto, anche il terrazzo, insomma, speriamo di non stare in ostaggio, che non diventi un cantiere per troppo tempo. tempo, perché sennò una spacciatura è sempre disagi, dai. Eh no, dovrebbero rispettare i tempi che hanno stabilito. Noi, il nostro è un palazzo da 5 piani, quindi abbastanza grandetto, ci sono 17 appartamenti più una mansarda e quindi quel geometra che è venuto ha detto che se non trovano intoppi eccetera dovrebbero finire in tre mesi e mezzo massimo per i lavori che devono fare, e ce li hanno elencati uno per uno. Una cosa che non ti ho detto è dell'ascensore. Praticamente se l'ascensore si può modificare, se c'è lo spazio in cabina, ci cambieranno pure l'ascensore, perché praticamente per l'abbattimento delle barriere architettoniche rientra anche quello nella questione 110, per cui devono esserci dall'apertura della porta 1,40 m, e noi nei pianerottoli abbiamo anche più di 1,40 m, mentre invece giù al piano terra c'è la rampa delle scale che è un po' più vicina, però ha detto che dovrebbero fare un piccolo progettino, eventualmente cambieranno l'ingresso perché dovranno toccare i gradini, per cui dovranno fare una piccola modifica, quindi ci saranno anche i lavori dell'ascensore. Praticamente mettono un ascensore moderno, non più quello a funi, ma non so com'è il funzionamento moderno adesso a olio, non so come funziona, e quindi c'è anche quello di lavorazione che noi non stavamo considerando, ma era stata inclusa quando avevamo fatto l'accordo, perché sono passati diversi anni da quando insomma era iniziato tutto e qualcuno si era dimenticato anche di quella lavorazione lì. Invece dovrebbero sostituirci anche l'ascensore, non so da voi se ci sia nel vostro condominio o meno. Vai Marco. Ho capito, sì. Praticamente ascensore con ingresso più largo per carrozzine e quant'altro, eccetera. Allora, qua da noi non c'è. E una volta un condomino dell'ultimo piano, che non abita più qui da anni, aveva fatto la sua proposta di installare l'ascensore, e che qua proprio non c'è materialmente lo spazio, cioè dove lo metti? Non lo puoi mettere, cioè dovresti donare mezza stanza per ogni condomino per farla mettere. No, è una cosa improponibile, è una cosa buttata proprio così, tanto per dire qualcosa. Eppure in un palazzo in Viale Mameli mi pare avessero fatto una cosa del genere, hanno aggiunto l'ascensore, hanno ricostruito mezzo palazzo, cioè alla fine per due piani che erano, io tutta quella fatica non l'avrei fatta. Comunque può darsi che qualcuno avesse necessità particolare, ma cioè finché c'è lo spazio per rispondere, ma ricostruire mezza palazzina per un ascensore mi sembra eccessivo. Eppure vabbè, chi li vuole spendere, contento lui. Eia. E qua per fortuna sono al piano basso, perché per il mio cuore, la respirazione, tutto, io avrei fatto, cioè sarebbe un problema per me abitare in un piano, già al secondo piano, a non dire al terzo, sarebbe già drammatico per la mia, sarebbe una fatica immane per me, capito? Poi non so il perché di questa cosa, ma proprio arrivo col cuore in gola, capito? Mi basta un terzo piano fatto a scale e me ne sono gli occhi. Oh Marco, scusa, forse adesso non c'è più quel rumorino che mi avevi detto, perché penso che fosse l'alimentatore del telefonino. Giulio, difficile dirlo perché sopraggiunta la portante, come hai attaccato tu, portantina, vediamo se qualcuno che non esce di radio che vuole entrare, avanti chi vuole entrare, riprova Giulio. Ok Marco, vabbè, sarà stata la preparazione probabilmente, vai. No, sento di fondo come questo ronzare, questo brrr, tipo alimentatore, diciamo che non influisce più di tanto sulla modulazione, per non dire che non influisce, forse qualcosa è migliorato rispetto a prima, però Per me non è un problema, cioè io ti capivo, l'intelligibilità della modulazione era totale per me. Capito Giulio, non c'era nemmeno, anche sì, questo effetto vibrato, se anche se compariva così tra una parola e l'altra, ma non era un problema per me. Quale scusando, quello come il mio oppure tutt'altro? Sì, aspetta. Importante. Boh. È inutile, non. Già non c'è nessuno. Boh. Capisci, Carlo, quando ti dico che se fanno i lavori qua ne bogano tutto, boh, viaggio, non metto più niente. Vai Carlo. Scusa Carlo, così va meglio, Marco, così è personale. Giulio, difficile dirlo, quando parli tu c'è portante e non è propagazione, è superiore al tuo il segnale. Vabbè, è solito deficiente, è solito deficiente. Non c'è problema, lasciamo fare così, intanto non cambia niente, così almeno mi senti, vediamo un po'. Sì, ti sento Giulio, sì, hai aumentato molto di segnale, però non riesco a capire appunto se di fondo c'è rumore o no, perché questo tic. Il solito bastardo, e lascio perdere, non le dà, lo sappiamo, è un po' benetto mentale, capito? Dice che è il solito, ma contento lui. Riprendi Carlo, dai, mi sa che chiudiamo qua, sono le 8, e mi piglio un gelato, un caffè, un gelato al caffè, faccio un mix. Esatto, sì, diciamo che sono le 8, ce la risentiamo, saluto Giulio che è in ascolto, Marco, già ce la risentiamo le prossime serate, dai, domani sono di mattina in servizio e di sera magari provo a entrare se c'è qualcuno intorno a quest'ora circa, ce la risentiamo. Ciao di nuovo Marco e Giulio e tutti gli ascoltatori. Ciao, chiudo. Scusate che ero al telefono, dai, io ne approfitto per salutare Giulio e definitivamente anche Carlo, dai, scendiamo in condizioni più fresche, diciamo, dai, speriamo. Che ne avete tasche piene, ogni giorno lo dico, ne avete tasche piene, è troppo caldo. È caldo di mio, dai. Va bene, ciao a tutti, buona serata. Così l'importantista si gioca con la chicchia. Ciao Marco, ce la risentiamo, ciao.